La politica alla prova. Un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi, siamo qui alla postazione di Montecitorio per un nuovo appuntamento con l'informazione politica, oggi dedicato interamente al tema del lavoro, sempre più al centro dell'attenzione di governo, capo dello Stato, parti sociali e forze politiche. E sì, perché lo avrete anche sentito dai nostri giornali radio, c'è grande attesa per il vertice dei ministri delle finanze e del lavoro d'Italia, Francia, Germania e Italia, che si terrà domani a Roma sul tema del contrasto a quella piaga che si chiama disoccupazione giovanile, un vertice che si tiene in vista dell'importante Consiglio europeo di fine giugno, ma attesa anche per le misure sulle quali sta lavorando il governo sul fronte del lavoro, alcune potrebbero tra l'altro vedere la luce già in un prossimo Consiglio dei Ministri. E intanto il capo dello Stato Napolitano torna a lanciare un forte allarme sulla situazione economica, mette in guardia contro il rischio di violenza eversiva e di esasperazione estremistica legate alla crisi delle imprese e del mondo del lavoro, di cui il monito ai partiti affinché lavorino serenamente e portino avanti le riforme necessarie. Ma sentiamo la voce del Capo dello Stato. Il governo operi serenamente, il Parlamento faccia costruttivamente e con lungimiranza la sua decisiva parte, le forze politiche non ricadano in meschini e convulsi calcoli di convenienza di qualsiasi specie. Ne va della credibilità del nostro Paese, della credibilità della politica e della democrazia in Italia. Il rinnovamento istituzionale infatti non è separabile dal rinnovamento politico e quest'ultimo non può prescindere da un rinnovamento morale che l'estensione della piaga antica della corruzione nella vita politica e nella vita amministrativa impone categoricamente. E intanto a minuti dovrebbe concludersi l'incontro tra i sindacati e il ministro del lavoro Giovannini, il quale ha parlato già questa mattina durante l'assemblea annuale di Unioncamere. Sentiamo. Io credo che passare messaggi che ogni anno dobbiamo fare una grande riforma del mercato del lavoro sia sbagliato. Poi giudicherete naturalmente quello che faremo sui contratti a termine, sull'apprendistato, per semplificare quello che va semplificato. Ma vi prego, questa parola riforma va usata veramente sulle cose importanti che richiedono riforme radicali, non su tutto. Ma oggi vogliamo parlarvi soprattutto di un'iniziativa che è stata presentata questa mattina qui alla Camera, davvero più unica che rara perché ha messo insieme tutti i parlamentari, under 35 nessuno escluso, un'iniziativa dunque unitaria dei giovani di PD, PDL, Scelta Civica, Lega, 5 Stelle, SEL, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, e forse è la prima volta che accade dall'inizio della legislatura e che chissà potrebbe magari preludere ad altre iniziative bipartisan. Si tratta di una mozione al governo contro la disoccupazione giovanile in vista del vertice di Roma di domani. A promuoverla Anna Ascani del PD. Lanciare un messaggio alla nostra generazione, perché noi siamo stati eletti, è vero, da tutti i cittadini italiani, ma abbiamo una responsabilità particolare, quella di dare ai ragazzi delle risposte. Noi quelle risposte le chiediamo oggi al governo con forza, chiediamo che ci si impegni nell'ambito del Consiglio europeo a chiedere più risorse e che poi ci si impegni a spenderle bene, a spenderle per dare le risposte che servono. Più occupazione, occupazione più stabile, quindi avere al lavoro i giovani, perché questo è il presente, non solo il futuro dell'Europa e di un'Europa più seria e più democratica. Ecco, questi gli obiettivi, in particolare qualche punto della mozione? Allora, noi chiediamo che ci siano più stanziamenti nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, che i fondi della Youth Guarantee siano utilizzabili già adesso e nel 2014 integralmente. Chiediamo una rivisitazione del funzionamento dei centri per l'impiego, un piano nazionale ad hoc per l'occupazione giovanile, con particolare attenzione alla defiscalizzazione dell'occupazione dei giovani a tempo indeterminato. E interventi di defiscalizzazione che riducono il costo del lavoro e che favoriscono l'assunzione dei giovani, aggiunge Anna Grazia Calabria del PDL, la quale sottolinea sul tema della disoccupazione giovanile siamo un'unica maggioranza. Sentiamo. Oggi è vero, oggi è un giorno importante, perché oggi è un giorno in cui non ci sono maggioranze variabili, non ci sono opposizioni, oggi siamo unica maggioranza. Oggi siamo unica maggioranza per portare avanti un tema che è vera e propria questione sociale. Ecco, la disoccupazione giovanile è la cosiddetta piaga del terzo millennio ed è importante essere qui oggi per dimostrare una vicinanza, ma non solo, una propositività sul tema che sarà determinante per l'Italia anche in vista di quel vertice che si terrà domani tra i ministri del lavoro europei, vertice europeo tra l'altro promosso dal nostro Presidente del Consiglio Enrico Letta. Ed è importante che oggi la conferenza stampa sia 24 ore prima di quel vertice, perché sta a sottolineare la volontà espressa di noi tutti i giovani parlamentari, ma non solo. Ecco, io vorrei scansare il campo da un equivoco, perché alcuni hanno detto: come mai l'avete firmata solo voi under 35 questa mozione? Ecco, io non credo che sulla disoccupazione giovanile, su un tema così importante come quello del lavoro, diritto fondamentale sancito dall'articolo 1 della Costituzione, ci possano essere divisioni di sorte, soprattutto generazionali. L'essere qui oggi insieme parlamentari under 35 significa una trasversalità su un tema in cui troppo spesso noi giovani non abbiamo investito. Ecco, occorre anche oggi fare un mea culpa rispetto a quello che noi non abbiamo fatto. Su queste proposte siamo già scongelati da tempo, dice Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle, riferimento a quel famoso invito di Enrico Letta ai Grillini durante le consultazioni come premier incaricato. Sentiamo la voce di Rizzetto. Per noi di Movimento 5 Stelle è un onore essere qui seduti con questi ragazzi giovani che hanno intrapreso questo percorso, questa attività politica, perché a tutti gli effetti anche questo è un'attività ed è un lavoro. Ed è forse una delle prime volte che riusciamo ad amalgamarci così bene e con una così ampia trasversalità di intenti. Effettivamente noi dobbiamo cercare di risultare, essere così trasversali rispetto anche ad altre commissioni, per cercare sicuramente di preservare un qualcosa che il lavoro in Italia ancora si muore purtroppo. Ogni giorno ci sono persone che la fanno finita perché non hanno un lavoro. Ci impegniamo. Il Movimento 5 Stelle evidentemente è sufficientemente e già scongelato da tempo rispetto a queste proposte. A noi va benissimo. Abbiamo sempre detto che votiamo le buone idee, riflettiamo sulle buone idee. Questa è un'ottima idea e sicuramente noi non abbiamo avuto un'incertezza di un secondo con i colleghi di commissione, Rostellato, Becchi, Ciprini, a dire va bene, aderiamo. Quindi noi, sotto questo punto di vista, sicuramente in noi troverete una sponda notevole e già scongelata, già pronta. Una sponda già scongelata, dice Rizzetto. Infine l'ultimo parlamentare, giovane parlamentare, Arturo Scotto di SEL, il quale sottolinea i limiti dell'Europa e delle politiche nei confronti dei giovani. Il tema deve essere mostrare e segnalare alle classi dirigenti europee che i vertici debbono essere innanzitutto comprensibili, leggibili dalle opinioni pubbliche e non possono essere soltanto, diciamo, occasioni di entente cordial tra governi. C'è bisogno di una svolta in Europa, la svolta passa attraverso il lavoro e deve partire dalla condizione giovanile. Una mozione che verrà presentata in aula lunedì per essere votata martedì. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione politica domani sempre alle 16:45. Un saluto ad Alessandra Schepisi.